Harry Paulson avrebbe voluto 700 miliardi di dollari, e subito, ma non li avrà tutti in una volta. Dopo una fitta trattativa tra il Congresso e la Casa Bianca, c'è un accordo i cui termini modificano il piano messo a punto dal segretario al Tesoro americano per fronteggiare la crisi finanziaria. Passa il principio base. Il governo potrà acquistare attività rischiose da qualsiasi istituzione finanziaria. L'obiettivo è sbloccare il settore del credito, paralizzato da un clima di sfiducia che si respira soprattutto tra le banche. Ma quei 700 miliardi richiesti saranno divisi in tre tranche. La prima, da 250, sarà disponibile subito dopo l'approvazione del Congresso, che dovrebbe arrivare entro mercoledì. Altri 100 miliardi saranno sbloccati dopo un resoconto del Tesoro sull'andamento della manovra. La terza tranche sarà disponibile dopo un nuovo intervento del Congresso. A vigilare su come verranno utilizzati questi soldi ci sarà un organismo di controllo indipendente che comprenderà tra gli altri il presidente della Federal Reserve e quello della SEC, l'autorità di controllo delle borse. Nel piano è previsto anche il divieto per i manager delle società che beneficeranno dei fondi di accedere a buonuscite d'oro e permette al Tesoro in alcuni casi di prendere il controllo delle società che attingono ai soldi del piano di salvataggio. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore.